ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Per qualche tempo il dottor Fadigati continuò a stare segregato durante l'intero tragitto nel vagone di seconda classe. A turno, approfittando delle fermate che il treno faceva a San Giorgio di Piano o a San Pietro in Casale, qualcuno del nostro gruppo balzava a terra con l'incarico di comperare al bar della stazioncina qualcosa da mangiare: panini imbottiti di salame crudo, appena essaccato, cioccolato con le mandorle che sapeva di sapone, biscotti o Svego mezzo ammuffiti. Volgendo lo sguardo allora al treno fermo e passando poi da vagone a vagone, si scorgeva a un tratto il dottor Fadigati dietro lo spesso cristallo del suo scompartimento, che osservava la gente attraversare i binari e affrettarsi verso le carrozze di terza. Dall'espressione di invidia accorata del suo viso, dalle occhiate di rimpianto con le quali seguiva la piccola folla campagnola a noi così indigesta, pareva poco meno che un recluso, un confinato di riguardo, in viaggio di trasferimento a Punza o alle Tremiti per restarvi chissà per quanto. Due o tre scompartimenti più in là, dietro un cristallo di uguale spessore, si distinguevano il capotreno e i suoi tre amici. Continuavano imperterriti a giocare a carte, a discutere tra loro fitto fitto, ridendo e agitando le mani. Ben presto, ad ogni modo, come era da prevedersi, cominciammo a vederlo girellare per i vagoni di terza. Lo sportello di comunicazione era sempre chiuso a chiave. Per farsi aprire, lo raccontò egli stesso più tardi, doveva ogni volta rivolgersi al controllore. «Scusino, signori», chiedeva mettendo il capo dentro lo scompartimento bisca. «Potrei, per favore, passare in terza classe?» Ma li seccava. Se ne accorgeva anche troppo bene. Il controllore lo precedeva lungo il corridoio con la chiave in mano e il passo del carceriere, borbottando e soffiando senza riguardi. A un certo punto il dottor Fadigati si era deciso a fare da sé. Attendeva la prima fermata, quella di Poggio Renatico. L'accelerato sostava da 3 a 5 minuti. C'era tutto il tempo per scendere a terra e risalire nel vagone immediatamente successivo. Nonostante ciò, non fu in treno che vennero stabiliti fra noi i primi contatti. Direi proprio di no. Mi resta l'impressione che la cosa sia accaduta a Bologna, per strada, anche se poi, come si vedrà qui di seguito, io non sappia indicare con sicurezza in quale strada precisa. Forse in quei giorni io fui assente da scuola e il fatto mi venne variamente riferito dopo dagli altri? O sono io, semplicemente, a tanti anni di distanza, a non saper distinguere, a non ricordare con precisione? Può darsi che sia stato uscendo dalla stazione mentre aspettavamo il tram di Mascarella. Siamo tutti quanti assieme, una decina, occupando buona parte della piattaforma tranviaria antistante al luogo di posteggio per le carrozze e per i tassi. Il sole scintilla sui cumuli di neve sporca che punteggiano a intervalli regolari il vasto piazzale. Il cielo sopra è d'un azzurro intenso, vibrante di luce. E Fadigati, che sta aspettando anche lui il tram sulla medesima piattaforma, è sopraggiunto per ultimo, un momento fa, ad un tratto, per attaccare discorso, non trova di meglio che uscire in qualche ovvia osservazione sulla giornata deliziosa, quasi primaverile, nonché sul tram di Mascarella, il quale, se la prende sempre così comoda che converrebbe in un certo senso andare a piedi. Sono frasi generiche, affatto banali, dette a mezza voce e senza che egli si rivolga ad alcuno di noi in particolare, ma a tutti in blocco e a nessuno. come se non ci conoscesse, o piuttosto non si azzardasse ad ammettere che ci conosce, neppure di vista. Ma alla fine, basta che uno, imbarazzato dalla sua incertezza e dal sorriso nervoso con cui ha accompagnato le sue vaghe considerazioni sulla stagione e sul tram, gli risponda con un minimo di urbanità, chiamandolo dottore. Allora salta subito fuori la verità, cioè che ci conosce tutti, benissimo, lui, nomi e cognomi, nonostante il fatto che in pochi anni siamo diventati dei giovanotti. Sa esattamente di chi siamo figli e come potrebbe non saperlo, come potrebbe essersene scordato. Andiamo, se da bambini, all'età che i bambini di buona famiglia hanno sempre da combattere col mal di gola e il mal d'orecchi, e ride, ci ha visti passare dal suo studio uno per uno, più o meno. Se non che, spesso, invece che prendere il tram e andare direttamente all'università in via Zamboni, preferivamo risalire a piedi i portici di via Indipendenza fino al centro. Era raro che Dellier ci fosse. Appena fuori dalla stazione tagliava la corda per conto suo e nessuno lo rivedeva più, in genere, né all'università, né in trattoria, né altrove, fino all'indomani mattina. Però gli altri, sgranati in ordine sparso lungo il marciapiede, c'erano sempre tutti. C'era Nino Bottecchiari, che studiava legge, ma per via di Bianca Sgarbi bazzicava continuamente i corridoi e le aule della facoltà di lettere, sorbendosi con pazienza le lezioni più indigeste, da quella di grammatica latina a quella di biblioteconomia. C'era Bianca, in basco blu e pellicciotto di coniglio corto ai fianchi, ora a braccetto con uno, ora con l'altro, quasi mai con Nino e solo per litigarsi. C'era Sergio Pavani, Otello Forti, Giovannino Piazza, Enrico San Giuliano, Vittorio Molon, chi studente di agraria, chi di medicina, chi di scienze economiche e commerciali. E c'ero infine io che, a parte Bianca Sgarbi, ero l'unico studente in lettere della compagnia. Ebbene, non è impossibile che una mattina di queste, mentre camminiamo lungo gli interminabili portici di via Indipendenza, alti e bui come navate di chiesa, fermandoci ogni tanto davanti a una vetrina di articoli sportivi, presso un chiosco di giornali, confondendoci magari alla gente che, attratta e come ipnotizzata dalla fiamma ossidrica, si assiepa in silenzio attorno a una squadra di operai intenti a riparare una rotaia della linea ferroviaria, non è affatto impossibile, dicevo, che una di queste mattine di tardo inverno, quando ogni pretesto par buono per rinviare il momento di chiudersi dentro un'aula scolastica, il dottor Fadigati, che da tempo ci seguiva, venga insensibilmente ad affiancarsi a qualcuno di noi, a Nino Bottecchiari e Bianca Sgarbi, per esempio, che un poco in disparte, ma incuranti come al solito di farsi sentire, discutono e litigano fra loro. Fadigati ci è venuto seguendo passo passo dalla stazione, ronzandoci, per così dire, continuamente attorno. Ce ne siamo accorti benissimo noi, sogghignando, dandoci di gomito, ne abbiamo anche parlato. Ad un tratto egli si affianca a Nino e a Bianca, si raschia la gola. Con la voce neutra, col tono vagamente impersonale che adopera sempre e si vede quando abborda degli sconosciuti dai quali non sa che accoglienza aspettarsi, lo si sente dire qualcosa. «Fate i bravi, ragazzi», ammonisce. Ed è proprio anche questa volta come se parlasse soprattutto all'aria, non a persone determinate. Ma poi, girando verso Bianca uno sguardo timido, esitante, eppure in qualche modo complice, scontrosamente complice e solidale, «E lei sia buona, signorina», aggiunge, «sia un po' più arrendevole. Tocca alla donna, non lo sa? Scherza, Povero uomo, non intende che scherzare. E Bianca scoppia a ridere. Anche Nino ride. Insieme, quindi, chiacchierando del più e del meno, arriviamo fino a Piazza del Nettuno. Anzi, prima di separarci, dobbiamo accettare per forza un caffè. Insomma, diventiamo amici, se è vero, in ogni caso, che fin dall'aprile del 37, nei due o tre scompartimenti di terza classe dentro i quali usiamo asserragliarci, la campagna già verde scorre fresca e luminosa nel riquadro del finestrino, il martedì e il venerdì mattina ci sarà sempre un posto anche per il dottor Fadigati. Si era messo in testa di prendere la libera docenza, disse. Per questo veniva a Bologna due volte la settimana. Ma ora che aveva trovato dei compagni di viaggio, quegli spostamenti bisettimanali non gli pesavano più tanto. Sedeva tranquillo al suo posto, limitandosi ad assistere alle nostre quotidiane discussioni, che spaziavano dallo sport alla politica, dalla letteratura alla filosofia, e toccavano talora perfino l'amore, lasciando cadere una parola ogni tanto, guardandoci dal suo sedile con occhio paterno e indulgente. Di molti di noi era, in certo senso, amico di famiglia. I nostri genitori frequentavano il suo studio di via Gorgadello da quasi 20 anni. Senza dubbio era a loro che pensava guardandoci. Sapeva che sapevamo? Forse no. Forse si illudeva ancora su questo punto. Nel suo contegno, comunque, nell'educato e preoccupato riserbo che si sforzava di mantenere, era fin troppo facile leggere il fermo proposito di comportarsi come se nulla di sé fosse mai trapelato in città. Per noi, soprattutto per noi, egli doveva continuare ad essere il dottor Fadigati di una volta, quando, da bambini, vedevamo il suo largo viso seminascosto dietro il tondo specchio frontale piegarsi e incombere sul nostro viso. Se esistevano delle persone al mondo con le quali dovesse cercare di tenersi su, queste eravamo proprio noi. Veduta da vicino, d'altra parte, la sua faccia non era granché cambiata. Quei 10-12 anni che ormai ci separavano dall'età delle tonsilliti, delle otiti, delle vegetazioni adenoidee, non avevano lasciato sul suo volto che tracce molto leggere. Aveva fatto le tempie grigie, ecco, ma per il resto, un po' più grasse e cascanti, forse, le sue guance apparivano dello stesso colore terreo di un tempo. La pelle che lo ricopriva, grossa, glabra, coi pori evidenti, dava sempre la medesima impressione del cuoio ben conciato. No, per questo eravamo molto più cambiati noi al confronto, noi che, di sfuggita, assurdamente, mentre lui magari tirava fuori dalla tasca del soprabito il Corriere della Sera e si metteva a leggerlo nel suo angolo, quieto e bonario, andavamo cercando su quel suo volto familiare le prove, i segni, starei per dire le macchie visibili del suo vizio, del suo peccato. Col tempo prese confidenza, tuttavia, cominciò a parlare un poco di più. Dopo una corta primavera, l'estate era venuta quasi di colpo. Faceva caldo, anche la mattina presto. Fuori, il verde della campagna bolognese si era fatto più cupo, più ricco. Nei campi delimitati dai filari dei gelsi, la canapa appariva già alta, il grano imbiondiva. «Mi sembra di essere tornato studente», riprendeva spesso Fadigati guardando fuori. «Mi sembra di essere tornato ai tempi quando anch'io andavo su e giù tra Venezia e Padova». «Era stato prima dell'altra guerra», raccontò. Fra il 10 e il 15 studiava medicina a Padova e per 2 anni aveva fatto la spola quotidiana fra le due città, né più né meno come la facevamo noi tra Ferrara e Bologna. A partire dal terzo anno, però, i suoi genitori, sempre in ansia per il suo cuore, avevano voluto che si stabilisse a Padova in una stanza d'affitto. E così, nei 3 anni successivi, si era laureato nel 15 col grande Arslan, 110 e lode, aveva condotto, in confronto a prima, vita relativamente sedentaria. Il sabato mattina, comunque, prendeva sempre il treno per passare la domenica in famiglia. Venezia, a quel tempo, non era certo una città allegra, la domenica, soprattutto d'inverno, ma Padova, con quei suoi lugubri, neri portici, con quell'odore di lesso che vi ristagna nei giorni festivi, uscendo dalle trattorie. Del resto era difficile che il lunedì non si presentasse puntualmente a lezione. «Chissà lei, dottore, che sgobbone sarà stato», esclamò una volta Bianca, che tanta era l'abitudine, faceva la civetta anche con Fadigati. Non le rispose direttamente, limitandosi a sorriderle con gentilezza. «Al giorno d'oggi avete la partita, il cinema, sani passatempi di ogni genere», disse poi. «Sapete quale era la principale risorsa della domenica per la gioventù dell'epoca mia? Le sale da ballo». Storse la bocca, così dicendo, come se avesse evocato luoghi ben altrimenti abominevoli, aggiungendo subito che a Venezia, perlomeno, lui aveva la casa, il papà e la mamma, soprattutto la mamma, gli affetti più sacri, insomma. Come l'aveva adorata, sospirava, la sua povera mamma. Intelligente, colta, bella, pia, in lei si assommavano tutte le virtù. Una mattina, anzi, e per la commozione gli occhi gli si inumidirono di pianto, estrasse dal portafogli una fotografia che circolò rapidamente di mano in mano. Si trattava di un piccolo ovale sbiadito. Ritraeva una donna di mezza età, in abito ottocentesco, dall'espressione soave, sì, ma nel complesso piuttosto insignificante. Vittorio Molon era l'unico fra noi la cui famiglia non fosse ferrarese. Proprietari agricoli di Frattapolesine, i Molon si erano trasferiti di qua dal Po da 5 o 6 anni soltanto. E si sentiva, perché Vittorio, specie quando parlava in italiano, conservava in pieno la cadenza veneta. Un giorno Fadigati gli chiese se per caso loro fossero di Padova. Gliel'ho chiesto, spiegò, perché quando ci vivevo io a Padova stavo a dozzina da una vedova che si chiamava Molon, Elsa Molon. La casetta di questa signora Molon si trovava in via San Francesco, nei pressi dell'università, e dava dietro su un grande orto. Che vita facevo! A Padova non avevo parenti, non amici, nemmeno tra i compagni di scuola. Dopodiché, apparentemente divagando, ma fu la sola volta che aprì uno spiraglio sulla sua notevole cultura letteraria, come se anche da questo lato egli si fosse imposto un preciso riserbo. Cominciò a parlare di una novella di non sapeva quale scrittore inglese o americano dell'Ottocento, ambientata appunto a Padova verso la fine del XVI secolo, se ricordava bene. «Protagonista della novella è uno studente solitario come ero io 30 anni fa», disse. «Come me, vive in una stanza d'affitto che dà su un grande orto, pieno di alberi velenosi». «Velenosi?» lo interruppe Bianca, spalancando gli occhi celesti. «Sì, velenosi», egli annuì. «L'orto su cui si apriva la mia finestra non era affatto avvelenato, però, si rassicuri, signorina. Era un orto molto normale, coltivato alla perfezione da una famiglia di contadini, certi Scagnellato, che abitava in una casupola addossata all'abside della chiesa di San Francesco. Io vi scendevo spesso a passeggiare con un libro in mano, specialmente nei tardi pomeriggi di luglio, sotto gli esami. Gli Scagnellato, che mi invitavano sovente a cena, erano l'unica famiglia padovana della quale fossi diventato intimo. Avevano due figli, due bei ragazzi, così vivi e simpatici, così... Lavoravano fra le piante e i seminati fino a che non ci si vedeva più. A quell'ora innaffiavano, in genere. Ah, il buon odore di letame! L'aria dello scompartimento era grigia del fumo delle nostre nazionali, ma egli l'aspirava a pieni polmoni, socchiudendo le palpebre dietro le lenti e dilatando le narici del grosso naso. Seguì un silenzio abbastanza prolungato e oppressivo. Delilier aprì gli occhi, sbadigliò rumorosamente. «Buono, l'odore del letame», diceva frattanto Bianca con una risatina nervosa. «Che idea!» Sporgendo il capo, Delilier lasciò cadere su Fadigati di traverso un'occhiata piena di disprezzo. «Lasci stare il letame, dottore», sogghignò. «E ci parli piuttosto di quei due ragazzi dell'orto che le piacevano tanto. Che cosa ci faceva insieme?» Fadigati sussultò, come se fosse stato colpito improvvisamente da uno schiaffo potentissimo. Il suo largo viso si deformò sotto i nostri occhi in una smorfia dolorosa. «Come?» balbettava. Disgustato, Delier si alzò. Apertasi sgarbatamente la strada fra le nostre gambe, uscì nel corridoio. «Il solito villano», sbuffò Bianca, toccandosi un ginocchio. Lanciò a Delier, esiliatosi in piedi nel corridoio, di là dalla porta a vetri, uno sguardo di disapprovazione. E quindi, rivolta a Fadigati, «Perché non finisce di raccontare la novella?» propose gentilmente. Lui non volle, tuttavia, per quanto Bianca insistesse. Protestò di non ricordarne esattamente l'intreccio e inoltre concluse con una sfumatura di malinconica galanteria che suonò particolarmente sforzata. Per quale ragione ci teneva tanto a sentire una storia che finiva, poteva assicurarglielo così male? Un attimo solo di abbandono gli era costato caro. Adesso si capisce, temeva il ridicolo più che mai.